Buongiorno, signora. Come si sente oggi? Bene. Posso? Sono la dottoressa Taylor. Ma io non l'ho mai vista. Io sono la psichiatra. Psichiatra? Ne ho bisogno? Fa parte del sistema di cura. Cosa facciamo? Parliamo della mia vita sessuale? Oh, no. Adesso le mostro delle diapositive e lei deve dirmi quello che le viene in mente. D'accordo? Certo, d'accordo. Lei interpreta i sogni? Un poco, sì. Sa che vogliono dire? Forse. C'è qualcosa che la preoccupa? No, non è questo. Però, ecco, faccio sempre questi sogni orribili, disgustosi. È come... beh... Quando ero tutto a pezzi, mi spiego? Mezzo sveglio e inconscio quasi. Facevo quel sogno sempre. Tutti questi dottori che batticiavano pensosi con il mio gulib. Dentro al cervello, mi capisce lei? Ero sempre lì con questo stesso sogno. Lei dice che vuol dire qualcosa? I pazienti che hanno avuto gravi lesioni come lei fanno spesso di questi sogni. Fa parte del processo di guarigione. Ah. Allora, adesso vedrà che in ogni diapositiva c'è sempre una battuta che manca. Lei deve dirmi cosa direbbe la persona interessata. D'accordo? Bene, d'accordo. Queste piume non sono bellissime? Dico che cosa direbbe quello là? Sì. Sì, ma non ci pensi soltanto. Dica la prima cosa che le passa per la mente. Cavolo! Teretano! Non ha il becco. Bene! Quello con cui litigavi sempre è a letto ed è grave. Pensare non mi va. Ma io vi spacco la faccia a voi e le vostre iarballe. Bravo! Che cosa desidera? Non ho tempo per fare su e giù, amore. Devo leggere il contatore. Giusto. Lei mi ha venduto un orologio che non funziona e io voglio indietro i miei soldi. Sa che può fare del suo orologio? Se lo infili nel culo! Pronto. Con questi può fare tutto quello che vuole. Con gli ovetti. Io li vorrei spiaccicare bene. Prenderli su e poi... Oh, ai! Oh, che cazzo! Bene, allora, questo è sufficiente. Tutto bene? Sì, spero.